I numeri, innanzitutto, sono circa 74.000 i contagiati, quasi 11.000 i morti, 13.000 i guariti. Il numero di nuovi contagi si aggira intorno ai 3.800 da due giorni, un numero più basso rispetto a quello di venerdì e sabato. La curva rallenta anche a Bergamo e Brescia. Arrivano i primi soldi ai comuni, che dicono che non bastano, per aiutare le famiglie in difficoltà economiche con la spesa, 400 milioni, anche per evitare fenomeni come il tentato assalto al supermercato a Palermo. Intanto ci sono quelli che ancora escono troppo di casa. Ieri 50.000 multe a Milano, 50 persone che hanno violato la quarantena. A Roma, dai dati delle celle telefoniche, risulta che un terzo dei romani si sposta. E poi la scuola, un poco ci manca la conferma che, salvo eventi particolari, l'anno finirà così, con gli studenti a casa. Si studiano soluzioni per la maturità e l'esame di terza media. Infine, come farsi mancare il polemicone sul calcio, con il ministro Spadafora che attacca il mondo del pallone dicendo che non ci sono solo loro, quello stesso mondo che replica secco ricordando che per ricavi fa da traino a tutto il mondo dello sport, l'associazione calciatori che ammette, insomma, prendiamo atto che la stagione forse è finita. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Iniziamo anche in questo lunedì 30 marzo alle 6:30 minuti e 16 secondi con la canzone che abbiamo eletto a nostro inno, Bob Marley, che ci dice che alla fine andrà tutto bene. Non una professione di ottimismo casuale, ma un modo per farci coraggio. Con Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. Iniziamo dunque. E oggi, se mi consentite, iniziamo la settimana con un racconto particolare. Oh, siamo in radio, è difficile parlare di fotografie, però... ce ne sono tre che troviamo oggi in giro sui giornali che, insomma, mi hanno colpito. La prima è una serie di fotografie, Il Foglio. Sono quattro pagine dedicate a chi, come molti di voi che sono all'ascolto, e vi aspetto come sempre al 349-238-6666, la vostra voce per sentire il vostro racconto di queste giornate. Dedicata a chi non si ferma, perché non può fermarsi. E dunque quattro pagine di fotografie, quattro pagine di ritratti solo da Porta Genova Navigli, una zona di Milano. Di Liliana, 54 anni, che lavora per una catena di supermercati di prodotti congelati ed è al lavoro. Comel, 40 anni, un biker che fa consegne a domicilio. Carmen, 50 anni, che ha un negozio di frutta. Antonella, 29 anni, e Alessandro, 42, farmacisti a Corso Colombo, e poi edicolanti, c'è di tutto. Bellissime queste quattro pagine del Foglio. Così come è bellissima la foto che campeggia in prima pagina sul quotidiano nazionale, arriva da Porto San Giorgio, provincia di Fermo. E la foto cos'è? Ci sono due balconi a distanza ravvicinata, di circa un metro e mezzo più o meno. Cosa fanno i due vicini di casa, due amici? Prendono un pezzo di legno, lo piazzano tra un balcone e l'altro e pranzano insieme, in quarantena. E infine, vabbè, questa è una cosa di cuore mia, lo sapete, la foto che gira un po' dappertutto di Milano, in mezzo a una strada col pavé, un bambino avrà sui 10 anni... con la maglia della Roma, la maglia di Zaniolo, che gioca a pallone in una strada deserta, completamente da solo. E va bene, in questi giorni tristi anche le foto ci servono, ci servono. Quanto durerà tutto questo? Il ministro Speranza. Le misure sono in scadenza il 3 di aprile e io posso dire che verranno sicuramente allungate. Ci riuniremo nel corso di questa settimana, ma le misure continueranno e ci sarà bisogno ancora di un sacrificio che io penso non sarà brevissimo, non sarà un sacrificio di qualche giorno, abbiamo bisogno ancora di un po' di tempo, ma in questo tempo dobbiamo studiare il dopo, perché il dopo arriverà, ecco. I cittadini devono sapere che questa battaglia, il nostro paese, ma più in generale l'umanità, la vincerà. E quindi dobbiamo organizzarci, ecco. Ma organizzarci ora non significa smettere immediatamente, Ministro, di rispettare queste regole che sono oggi fondamentali. Così il ministro Speranza, il quale dice arrivano segnali positivi. È vero che si vede in qualche modo un primissimo segnale, al netto dei numeri statistici che ogni giorno vengono riportati evidentemente da tutte le regioni e quindi dalla protezione civile, che danno comunque un aumento costante significativo, ci sono segnali incoraggianti che arrivano da qualche giorno, in modo particolare dai pronto soccorso delle aree che sono state più colpite, soprattutto nella prima fase, le aree che hanno pagato il prezzo più alto. Ospite ieri di Fabio Fazio, con un eventuale stop alle misure, dice, ci bruciamo il vantaggio, Speranza. Sentiamo. E però questo non basta. Se noi immaginassimo in un istante di bloccare queste misure, commetteremmo un errore drammatico e bruceremmo quel questo piccolo vantaggio che stiamo provando a costruire. Segnali che vengono identificati come positivi anche dal direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, sentiamolo. È vero che noi oggi ci troviamo in una fase di picco, in qualche modo, vicini al picco, a meno guardando i dati o cercando di interpretare in qualche modo la curva per come si sta sviluppando, ma è altrettanto vero che la sfida oggi è proprio quella di andare a individuare le persone positive prima che poi arrivino all'ospedale, tanto più precocemente possibile, partendo ovviamente da due realtà importanti. La prima realtà è la disponibilità di test di cui disponiamo, la seconda andare a intercettare quanto più precocemente possibile i pauci sintomatici o i sintomatici e poi dopo sviluppare evidentemente altre potenzialità. E poi, insomma, il luogo centrale di tutta questa vicenda, che è ovviamente la Lombardia, l'assessore alla sanità Gallera. Siamo a 41.007 positivi, con un incremento di 1.592, quindi ce lo diranno ancora loro oggi, il dato non può essere considerato giorno per giorno, questo è un dato che oggi si riduce, ieri eravamo a più 2.100, oggi più 1.600, quindi un dato che evidenzia una riduzione. E quindi, come si diceva, segnali positivi che vengono identificati anche dalla regione Lombardia. Speriamo che tenga così, speriamo che tenga così. Non terrà certamente grazie a quegli irresponsabili, quella cinquantina di irresponsabili che dovevano stare in quarantena e che a Milano sono stati beccati in giro. Io non lo so, francamente, se possiamo discutere all'infinito se farsi una passeggiata intorno all'isolato si può fare, non si può fare. Di certo, se sei in quarantena, no, non la fai, per favore, stai a casa, ok? Scusate se mi ci innervosisco su questo, però insomma. Un abbraccio a Federico da un caseificio di Bergamo. Mola mia, dice, non mollare, Non molliamo mica. E a tutti gli altri che ci stanno scrivendo, sì, anche le ostetriche che fanno parte del personale sanitario che ringraziamo ogni giorno, come ringraziamo i camionisti, tutti quelli che stanno tenendo attivo il paese in questo momento e ci consentono anche di sopravvivere. Non solo negli ospedali, ma anche comprando la roba da mangiare, chi è nei supermercati, lavora nei supermercati, quelli che lavorano, come l'ascoltatore che ci scrive, nelle reti gas e acqua, perché poi anche quello ci serve, tutta gente che noi ci dimentichiamo a volte, che però sta tenendo in piedi il paese e tutti noi in questo momento. Un abbraccio a tutti, ci siamo e ci siamo anche per voi. Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118. Buongiorno Balzanelli, eccoci. Buongiorno a tutti voi. Allora, in tutto questo, insomma, abbiamo dato qualche segnale di speranza. Le note dolenti ovviamente ci sono tutte, a partire da quelli che lei ha definito, Balzanelli, una serie di errori madornali che forse vengono commessi anche adesso. Quali sono? Lo spirito ovviamente è costruttivo, perché questo è il momento della grande costruzione, che vede quindi doverosa l'analisi delle criticità per una strategia che a mio parere andrebbe mutata in ambito sostanziale. Noi dobbiamo impedire nella maniera più assoluta che gli oligosintomatici, cioè coloro i quali siano positivi al tampone e abbiano segni e sintomi di carattere minore, vengano lasciati a svernare fondamentalmente a casa senza ricevere le cure a base di antivirali. Noi dobbiamo impedire sostanzialmente che i positivi che presentino quadri clinici minori vadano a peggiorare. E questo è il punto centrale. Le terapie vanno iniziate immediatamente, prima che ci si aggravi. E sull'aggravamento noi abbiamo lo strumento straordinario del monitoraggio attraverso l'apparecchietto che denominiamo saturimetro, sì, che fa la differenza, perché realmente ci consente di intercettare la desaturazione, cioè quella condizione nella quale incominciano a ridursi oltre livelli di soglia fondamentali le concentrazioni di ossigeno nel sangue. Perché quando compare l'affanno, situazione che si verifica ore o anche un paio di giorni dopo, rischia di arrivare già in una condizione tardiva. Nella nostra esperienza, quando dalle centrali operative ci dicono non respiro bene e vengono immediatamente presi, dovunque essi si trovano, in condizioni delicatissime di protezione che chiamiamo di elevato biocontenimento, e li portiamo in ospedale facendo subito l'attacco del torace, vediamo che l'ospedalizzazione precoce, cioè non appena ci dicono non respiro bene, già evidenzia l'attacco dei quadri evolutissimi di ampia compromissione. La polmonite interstiziale alveolare è già avanzatissima, ecco perché poi li attacchiamo ai respiratori nelle terapie intensive. Quindi in sostanza, Balzanelli, la sostanza è questa: bisogna intervenire prima e il prima possibile, appunto, per esempio con gli antivirali, no? Sì. Con gli antivirali, con l'idrossiclorochina, il Plaquenil, che si è dimostrato efficacissimo, sono compresse, si possono andare a casa, sì. Si tratta di compresse, è una follia non darle, e il saturimetro non può essere che sono spariti, ma come si dice che sono spariti? Il saturimetro, a cosa che veniamo a fare il giro del mondo per prendere, devono essere dati ai quarantenati. Senta. L'altro giorno una signora che aveva un saturimetro a casa, proprio qui a Taranto, sì, ci ha chiamato e ha detto: guardi, io sto bene, ho 47 anni, improvvisamente vedo che la mia saturazione è 92. Ho detto: ma lei respira bene? Sì, sì, mi sembra di respirare bene, ma qui vedo 92. La veniamo a prendere. Abbiamo fatto l'attack polmonite interstiziale nelle fasi iniziali. Questa signora oggi sta in ventilazione non invasiva, non è attaccata a un respiratore. Senta Balzanelli, come state lavorando voi come sistema 118? Intendo, so come lavorate, cioè contenimento massimo, poi vengono, ne abbiamo parlato con dei volontari tra l'altro nei giorni scorsi, poi vengono disinfettate ovviamente le ambulanze, sanificate le ambulanze e via dicendo. Quella parte, la parte operativa la sappiamo. Quello che mi interessa è capire se come state lavorando, avete tutta la strumentazione adeguata, le famose mascherine, le tute di protezione, via dicendo. Noi siamo estremamente arrabbiati, riferisco quindi come presidente nazionale della SIS 118 e lo ribadisco in chiave costruttiva, perché questo è il grande momento. Io concordo col ministro quando dice che dobbiamo essere uniti e dobbiamo costruire, però dobbiamo evidenziare le grandi criticità. La protezione civile ha distribuito orizzontalmente i dispositivi di protezione individuale, non doveva farlo. perché bisognava prioritizzare la fornitura di dispositivi idonei sull'asse dei 5 pilastri che sono la linea che sta a strettissimo contatto con Covid-19, i quali sono il 118, il pronto soccorso, le pneumologie, le malattie infettive, le anestesie e rianimazioni. Tutti gli altri devono avere le chirurgiche. Invece abbiamo cittadini, sindaci con l'FFP3, il 118 che non ce l'ha. Significa che siamo andati in troppi territori regionali e stiamo andando a mani nude a rischiare di morire. Alcuni di noi stanno incominciando a morire. Questa cosa non l'accettiamo, non la possiamo, non la dobbiamo accettare. Per cui noi chiediamo aiuto, assolutamente, nel pieno diritto di difendere noi stessi, anche le nostre famiglie, di non diventare noi stessi super diffusori. Perché il 118 allora diventa uno straordinario super diffusore della patologia, del contagio, se noi stessi veniamo messi a rischio di ammalarci e di trasferire agli altri Covid-19. Certamente. Questi sono errori gravi sui quali bisogna immediatamente porre un rimedio. Marco Wong, consigliere comunale a Prato, imprenditore, presidente onorario di Associna, che è l'associazione delle seconde generazioni di cinesi. Vogliamo andare là perché la Toscana sta gestendo le cose in maniera diversa da altre regioni e soprattutto là c'è la Chinatown più grande d'Italia, e il posto, no, sul quale si erano addensate tutta una serie di preoccupazioni che non si sono verificate. Innanzitutto buongiorno Wong, benvenuto. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Prima di parlare con lei, il traffico. Mattino. Oh, e meno male che il traffico è scorrevole, perché vuol dire, insomma, gli italiani stanno rispettando le regole, almeno in gran parte. Ascolti Wong, nella comunità di Prato di fatto è scattato un autoisolamento che ha spinto anche gli abitanti italiani di Prato di fatto a rispettare le regole in maniera più rigida, mi sembra di aver capito. Sì, in effetti nella comunità cinese di Prato, un po' in tutta Italia a dire il vero, c'è stata una consapevolezza anticipata rispetto al resto della popolazione, questo perché stando in contatto con la Cina hanno avuto modo di sentire un po' l'atmosfera che tirava al di là delle notizie ufficiali, e quindi c'è stata la consapevolezza del pericolo, insomma, molto più immediata e quindi anticipata rispetto per esempio ai vari decreti. Insomma, i cinesi che tornavano dalla Cina hanno osservato un periodo di autoisolamento anche quando non era richiesto, e insomma molto spesso hanno anticipato i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, insomma, in anticipo e con una consapevolezza maggiore. Quindi spesa una sola persona una volta a settimana, cioè tutte le regole che abbiamo visto applicare a Wuhan applicate a Prato in sostanza. Sì, poi per esempio insomma, c'erano dei sistemi di autotracciamento, per cui nel primo periodo le persone che ritornavano dalla Cina mandavano nelle chat che erano frequentate dai cinesi di Prato una lista in cui si autosegnalavano, mettevano il proprio nome, numero di telefono, data di rientro dalla Cina e località visitate, in modo che insomma, se fosse scoppiato un caso si sapeva un po' il tipo di spostamenti che avevano fatto e eventualmente si sarebbe potuto fare una tracciabilità di quello che poi delle persone che avrebbero potuto incontrare e così via. Senta Wong, dicevamo dell'impatto, no, anche sugli abitanti italiani di Prato. Cioè, io immagino che a un certo punto, visto e sapendo, no, che i cinesi normalmente sono dei grandissimi lavoratori, visto che fermavate tutto, avranno detto: beh, sai che c'è, tutto sommato la cosa mette più paura di quello che, no, che non si potesse pensare. Sì, sicuramente ha un po' contribuito poi il fatto che insomma, in quelle attività che ancora non erano aperte qualche settimana fa, per esempio, molti invitavano i propri clienti o fornitori, prima di entrare nelle proprie attività, a indossare la mascherina, e a pulirsi le mani con gel disinfettanti. Quindi questo qui insomma probabilmente ha anche contribuito a far crescere una consapevolezza maggiore rispetto a questo pericolo. Poi per esempio nelle scuole le famiglie cinesi avevano iniziato a trattenere i figli a casa insomma un pochino prima della sospensione delle lezioni a scuola, quindi insomma tutto un insieme di cose che hanno fatto sì che probabilmente si prendesse con maggior serietà insomma i vari provvedimenti che poi sono entrati in vigore. Allora, la ringrazio Marco Wong per essere stato con noi e averci dato questa testimonianza e ho un'ultima domanda per Mario Balzanelli che lo porta in realtà sul suo territorio perché il suo territorio Balzanelli è quello di Taranto, insomma oltre ad essere il presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118 è il guida il 118 a Taranto. Senta Balzanelli, ieri abbiamo avuto il primo caso all'Ilva, immagino che questo rappresenti un fronte di preoccupazione piuttosto forte. Sì, per lo strettissimo contatto che vede migliaia, sono quasi 13.000 le persone che lavorano in Ilva, quindi siamo in qualche maniera nella necessità di preoccuparci, però ci siamo preoccupati per tempo, abbiamo predisposto la Regione Puglia, il governatore, insomma tutto il vertice strategico, abbiamo disposto delle aree proprio sotto l'insegnamento di Wuhan, che prevedono l'installazione di container laddove dovesse essere necessario. Bisogna uscire dagli ospedali, un altro grande tema è che Covid non deve entrare negli ospedali, perché se entra in un ospedale in qualche modo si diffonde, un indice di contagiosità altissimo, pensate del 41%, significa che anche se ci si mette in aree isolate fondamentalmente gironzola, se ne va a colpire anche zone dove apparentemente è impensabile, sì, che qualcuno possa essere contagiato. Sì. Wuhan insegna, condivido le considerazioni precedenti che sono state fatte, che bisogna stare fuori dalle sedi ospedaliere. L'Ilva ci impone strutture campali, speriamo che non accada, però in qualche maniera dovremmo pensare nella peggiore, sì, delle ipotesi, a creare delle zone campali di ospedali, sì, completamente al di fuori delle strutture attualmente Covid dedicate. Sì, o comunque delle zone di transito. Adesso ci arriviamo perché arriveremo a parlare dell'esempio francese. Intanto la ringrazio, grazie a Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118. Prima però di arrivare all'esempio francese, c'è tutto il tema dei soldi ai comuni che sta alzando dibattito in queste ore. Sono soldi che dopo le minacce di assalto, il tentato assalto a un supermercato di Palermo, il governo ha deciso di fornire in emergenza 400 milioni che i comuni dicono ci basteranno per 3 settimane. Sentiremo più avanti il presidente dell'ANCI, De Caro. Conte. Forse la cosa più importante che adesso riguarda i cittadini, molti cittadini, ahimè, che ci ascoltano e che sono in grandi difficoltà, è che con una ordinanza della Protezione Civile noi aggiungiamo a questo fondo 400 milioni. Questi 400 milioni è un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Di fatto dei buoni spesa, vedremo come andranno le cose, come li spenderanno i sindaci. Siamo in linea con Luca Di Chiara Maggioli, è un medico italiano, vive in Francia, a Lione, è anestesista e rianimatore, quindi per così dire coinvolto piuttosto direttamente in queste vicende. Buongiorno, benvenuto. Sì, salve, buongiorno. Allora, ci dice un po' come stanno gestendo la situazione in Francia, perché abbiamo visto un po' di leggerezza iniziale, a dire il vero, e poi il rendersi progressivamente conto, curiosamente dopo le elezioni comunali, che insomma la situazione era più grave del previsto. Ah sì, probabilmente insomma noi medici italiani che eravamo direttamente coinvolti avevamo tante comunicazioni, soprattutto noi rianimatori avevamo comunicazioni con i nostri colleghi dal nord Italia ed è ovvio che condividevamo con loro un allarme che però insomma era difficile poi comunicare qui in patria, un po' per ragioni culturali, un po' perché comunque la negazione collettiva penso che sia stata un po' il leitmotiv di tutti i paesi che non sono stati toccati immediatamente, e quindi sicuramente è stato solo dopo l'annuncio del presidente Macron che c'è stata un pochino la chiamata, no, c'è stata la chiamata alle armi, e quindi a un certo punto, dopo una prima reazione di panico, poi le cose si sono cominciate ad attivare in maniera un pochino più coerente. Mi dicevano che l'ha coinvolta direttamente questa ondata di panico, cioè la volevano mandare via di casa perché è italiano, non ho capito sì, bene. Sì, vabbè, ma insomma questi sono sì, no, vabbè, cioè, giusto per dare l'idea, insomma, personali che probabilmente insomma ci sono tante poi difficoltà che riguardano un po' i soldati, insomma io sono uno dei tanti, e quindi sicuramente insomma diciamo avere una targa italiana e come non dire aiuta. Un accento italiano non, aiuta. Non aiutava, ma insomma non ha aiutato alcuni, ma poi in realtà ho ricevuto anche tanta solidarietà da tanti altri, quindi insomma mai generalizzare, ecco. Allora parlavamo prima con Balzanelli, no, della questione della fase intermedia per evitare poi, no, che gli ospedali diventino luoghi di contagio, insomma per evitare poi che si riempiano le terapie intensive, come funziona là da voi? Beh, lo condivido perfettamente, nel senso che qui quello che si è stato, che si è cercato, io devo dire che la presenza dell'ordine dei medici in maniera particolare, dei vari organismi, che è un po' la forza tipica francese, quella dell'associazionismo, sta permettendo di fare tanta pedagogia sui medici di base, sui medici del territorio, per fare cintura, la chiamano proprio i rimparli, chiamano le mura di difesa per evitare che la popolazione arrivi all'ospedale e che arrivi solo nel momento più corretto, questo per evitare di saturare poi la disponibilità di cure, insomma anche ricordando che chi accede poi in ospedale ha dei tempi purtroppo di degenza relativamente lunghi, soprattutto nelle terapie intensive, i numeri di posti letto come abbiamo imparato a conoscere sono limitati, quindi tanta pedagogia sui medici, ci danno tanti strumenti a tutti, dalla teleconsultazione, quindi seguire in differita, in remoto i pazienti e cercare diciamo di evitare appunto che appunto come è stato detto prima gli ospedali si trasformino in quelle bombe di cariche virali che poi contagiano i medici stessi, i paramedici, tutti gli operatori sanitari, e che rappresentano anche poi una fonte di contagio per i pazienti che ancora non lo sono, che non sono contagiati. E che in parte abbiamo visto succedere in Italia, come ormai ben sappiamo, e come poi andrà appurato più attentamente quando sarà finita questa fase di emergenza. Certo. Io la ringrazio, grazie a Luca di Chiaramaggioli per essere stato con noi, anestesista, rianimatore, medico italiano in Francia, magari torneremo a parlare con lei nelle prossime settimane per farci raccontare un po' come vanno le cose. Vorrei farvi sentire, insomma bisogna sentirlo, questo minutino del premier albanese Edi Rama, che ha mandato 30 medici e infermieri, e così spiega le cose anche, seppur in italiano, di fronte al suo popolo. Dice: ma insomma, rischiamo una crisi sanitaria anche noi, ma perché mandi i medici e gli infermieri in Italia? Lo so che a qualcuno qui in Albania sembrerà strano che 30 medici e infermieri della nostra piccola armata in tenuta bianca partono oggi per la linea del fuoco in Italia. So che 30 medici e infermieri non riverseranno il rapporto tra la forza micidiale del nemico invisibile e le forze in tenuta bianca che lo stanno combattendo nella linea del fuoco da quella parte del mare. Ma so anche che anche laggiù noi stiamo combattendo lo stesso nemico invisibile, e le risorse umane e logistiche della nostra guerra non sono illimitate, ma oggi noi non possiamo tenerle le forze di riserva in attesa che siano chiamate, mentre in Italia, dove si stanno curando negli ospedali di guerra anche albanesi, feriti dal nemico, hanno un enorme bisogno di aiuto. Oh certo, c'è un po' questa retorica sulla guerra che inizia forse a stancare, però non è male. Ci sono molti albanesi che vengono curati nei vostri ospedali e quindi con questa stessa solidarietà che mostrate voi nei confronti dei nostri cittadini, ebbene, noi vi mandiamo medici e infermieri. Edi Rama, premier albanese. E col nostro inno al coraggio chiudiamo questa parte di 24 mattino, sempre 349-238-6666 per gli WhatsApp audio. Siamo anche in diretta su Facebook, in questi giorni non ve l'ho ricordato, ma insomma tanto ormai lo sapete. Dopo il GR ci sentiamo con la rassegna stampa.